Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ci sono amori che hanno bisogno di superare innumerevoli prove prima di venire alla luce. Amori sofferti, tormentati, che fanno male a chi ne è coinvolto. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo una storia di amicizia e passione sullo sfondo di una Parigi contemporanea, romantica e raffinata. Per farlo, incontriamo la nostra prima protagonista, una bella ragazza spigliata, colta e carismatica. Il suo nome è Justine Lévy. Justine Lévy. Justine Lévy, merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Justine Lévy è la quintessenza della donna francese. Jeans, ballerine colorate e magliette a righe orizzontali. È semplice e sempre chic, sofisticata anche quando esce di casa per comprare il giornale. La sua eleganza tocca tutto quello che la circonda. I suoi vestiti, i suoi amici, il suo stile di vita. Rappresenta perfettamente l'immagine che si ha in testa della parigina borghese, un po' snob, che fuma una sigaretta seduta a un tavolino di un caffè del quartiere latino. E non ha paura ad ammettere che snob agli Champs-Élysées, troppo presi d'assalto dai turisti. Non so perché, ma la folla mi dà fastidio. Mi fa mancare il fiato. Vedere tutta la gente che si accalca, fa fotografie, compra souvenir. Mi sembra che non rispettino Parigi, che non diano a questa città l'amore che si merita. Non so. Justine, studentessa modello, colta e intelligente, che strizza l'occhio alla moda senza esserne succube, che ama il gusto più che il lusso, è la perfetta sintesi di quel modello che i francesi stessi chiamano, in un misto di ironia e ammirazione, bobo, vale a dire borghesi bohemian. Figli di ottima famiglia, girano il mondo, leggono, amano l'arte, si preoccupano dell'ambiente, frequentano il mondo intellettuale, parlano altre lingue, sono attenti ai problemi sociali, si nutrono di film e musica d'autore e sono sempre un po' a metà strada tra lo chic e lo snob. Per questo motivo c'è anche chi li racconta con sarcasmo, come Charles Berberian, che con il socio Philippe Dupuis ne ha fatto una parodia a fumetti molto celebre in Francia dal titolo Benvenuti a Bobolandia. I bobo contano moltissimo. Sono i nuovi opinion leader. Sanno dove si mangia meglio, cosa bisogna votare, dove andare in vacanza. Danno consigli eccellenti e sono molto in gamba. Cosa li distingue dagli altri? Che loro possono permetterselo. Justine legge questi fumetti e ride di se stessa e dei suoi amici. Si prende in giro, è autoironica, sempre allegra, e per la strada saluta tutti, i più lontani con un cenno della mano, i più vicini con un grande sorriso. Passa i suoi pomeriggi tra una libreria e una passeggiata lungo la Senna per fermarsi a cercare vecchie cartoline dagli antiquari sul marciapiede. A volte si perde nei negozi di fiori, annusa i profumi, guarda i colori. Si sente profondamente parte di Parigi e coglie ogni piccola gioia che questa magica città le offre. Un po' come Amélie, la protagonista con la frangetta dell'omonimo film diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 2001. Non ci sono uomini nella vita di Amélie. Ci ha provato un paio di volte, ma il risultato non è stato all'altezza delle sue aspettative. In compenso, coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint-Martin. Justine Lévy è bella, intelligente, ricca, curiosa e divertente. È una donna intensa, interessante e complicata, piena di amici e corteggiatori. La vita sembra averle dato tutto, senza nemmeno il bisogno di chiederlo. Ma le cose spesso viste da fuori non sono come viste da dentro. Justine nasce nel 1974 a Parigi, primogenita di genitori a dir poco ingombranti. Sua madre è Isabelle Dutre-Luigne, modella di grido che gli stilisti si contendono, mentre suo padre è Bernard-Henri Lévy, affascinante filosofo che è stato uno dei grandi animatori del movimento del maggio 68 e che in Francia è un mito da tutti chiamato semplicemente Béachel, come se il nome, per identificarlo, non servisse neanche, tanto che i media di lui parlano con questo entusiasmo. Béachel è diventato un marchio di fabbrica. Quando c'è lui in qualsiasi dibattito la gente si ferma ad ascoltare. Tutti vogliono sapere cosa ne pensa Bernard-Henri Lévy. Di qualsiasi cosa, dalla questione medio orientale all'ultima eliminazione di un concorrente in un reality show. Lui ha questa potente arma. Oltre che colto e carismatico, è incredibilmente fascinoso e glamour. È un divo ed è richiesto in tutti i salotti. La piccola Justine, il papà lo vede pochissimo. Lui è sempre in giro, in Francia, all'estero, tiene lezioni in università, combatte battaglie per i diritti civili, appoggia campagne politiche, scrive libri. E per farlo va sul posto. Per esempio, è stato in India e poi in Bangladesh, dove ha documentato con attenzione la guerra di indipendenza contro il Pakistan. La mamma, Isabelle, è bellissima e sempre sola. Ha un'indole che tende all'eccesso. Ha un'esasperata follia che porta suo marito a definirla l'ultima musa surrealista. Eccentrica e non convenzionale come Gala, la moglie di Dalí, mentre il suo viso potrebbe essere stato partorito dalla fantasia del fotografo Man Ray. Isabelle si consola della sua profonda infelicità con amanti fugaci, alcol, droga e vita sregolata. Vizi pericolosi che la portano qualche volta ad addormentarsi stravolta e a dimenticarsi persino di dare da mangiare a Justine. Neanche gli amici riescono ad aiutarla, come racconta il celeberrimo fotografo di moda Helmut Newton, che l'ha più volte immortalata. Isabelle aveva un fascino assoluto, ti travolgeva. Eppure aveva questa tendenza alla distruzione, si devastava. E se provavamo a dirle qualcosa, faceva di peggio, come se fosse una sfida contro gli altri invece che con se stessa. Justine è ancora piccola quando suo padre decide che è giunto il momento di portarla via dalla mamma. Lei le vuole bene, ne è sicuro, a suo modo gliene vuole moltissimo. Ma non può più sopportare le telefonate della maestra che anche quando magari è lontano lo chiama perché Justine è stata dimenticata a scuola e sua madre non risponde nemmeno. Lui è spesso in giro, è vero, e Justine resta coi nonni e babysitter. Ma almeno la sua vita diventa regolare. Pasti regolari, orari regolari, una vita da bambina tra i bambini, come tutte le altre, insomma. A ricordarlo è la stessa Justine. Non mi sembrava vero. Io giocavo sempre da sola, non ero abituata a stare in mezzo agli altri bambini, a parlare, a giocare con loro. Uno di questi bambini si chiama Raphael. Ha un anno in meno di Justine, è piccolo di statura, molto magro e ha i capelli nero corvino. Il suo sguardo è intenso, penetrante. Sembra leggere nel pensiero. Parla pochissimo e non nasconde affatto di non nutrire una particolare simpatia per Justine, che come succede sempre tra maschi e femmine a quell'età, è molto più spigliata di lui. Lei stessa lo ricorda così. Raphael era veramente un bambino antipatico. Se ne stava sempre in un angolo con quell'aria da perfettino, sempre pettinato. Sembrava che guardasse tutti con sufficienza, con quell'aria di superiorità. Raphael, di cognome, si chiama Antovin ed è il figlio del migliore amico di Bernard-Henri Lévy, Jean-Paul Antovin. Per questo i due bambini sono quasi costretti a stare sempre insieme, perché sono i loro padri a stare sempre insieme. Jean-Paul Antovin è anche lui un intellettuale, critico e letterato, proprio come Bernard-Henri. E i due passano ore seduti sul divano a discutere di cultura e cinema, fumando un sigaro cubano di importazione e bevendo un buon bicchiere di vino rosso, di cui entrambi sono grandi estimatori. Ovvio che Justine e Raphael, loro malgrado, si frequentino moltissimo. Non si piacciono per niente. Ma diversi anni sono costretti a vedersi e si sopportano a malapena, fino a un giorno particolare. Siamo a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. E Justine è un adolescente che ha voglia di conoscere il mondo. Per il suo compleanno, suo padre Bernard le ha fatto il regalo più bello che si potesse ricevere: due biglietti per il concerto evento dei Rolling Stones a Parigi. Justine adora gli Stones, ma la cosa che più le interessa è passare una serata eccitante con papà. A metà pomeriggio è già pronta: jeans, t-shirt bianca, coda di cavallo e piccola borsa a tracolla che ti permette di ballare e saltare liberamente. Papà deve passarla a prendere, ma non arriva. Passa mezz'ora e non arriva. Un'ora, ancora niente. Squilla il telefono e lui è stato trattenuto a una conferenza e dovrà saltare il concerto. Ma ha già chiamato Raffaella perché sia lui ad accompagnarla. Justine scoppia a piangere. La delusione è immensa. Quando arriva Raffaele, in motorino, sale dietro e abbraccia forte la sua schiena senza smettere di piangere. Lui parte, sfreccia per gli eleganti boulevard e non fa domande perché ha capito tutto. E per la prima volta la guarda con una tenerezza tutta nuova. A distanza di anni, lui si ricorda perfettamente quel momento. Justine era così fragile. Non mi ero mai accorto del bene che le volevo. E invece quel giorno, in moto, con l'aria tra i capelli e lei che mi stringeva forte, sentivo solo che volevo proteggerla. E d'istinto l'ho baciata. Raphael ha appena baciato Justine e lei è travolta da un vortice di emozioni contrastanti, curiosità, stupore, spinta verso di lui. Non si aspettava quel bacio e neanche lui in fondo si aspettava che gliel'avrebbe dato. I rispettivi padri sono migliori amici e loro sono cresciuti insieme, ma mai si erano davvero interessati l'uno all'altra. E invece adesso da ragazzi scoprono che tra loro c'è qualcosa di più. Decidono di tenerlo nascosto, ma giorno dopo giorno iniziano a uscire insieme. Passeggiate mano nella mano, cinema, nottate passate a chiacchierare su un gradino per strada, come se il mondo non esistesse. Se lo ricorda bene, Justine. Guardavo Raphael e non capivo come avevo fatto a non notare prima la sua bellezza, il suo fascino. Ero totalmente travolta da lui, dal modo in cui rideva, dal modo in cui giocava col suo anello, persino dal modo in cui prendeva il tabacco e si arrotolava una sigaretta. D'altra parte non c'è cornice più bella per assecondare la nascita di un amore. Parigi, la città più romantica, con le sue luci dal sapore retrò e i suoi angoli da cartolina immortalati dall'obiettivo del grande fotografo Henri Cartier-Bresson. Justine e Raphael stanno insieme per mesi senza dirlo alla famiglia. Naturalmente nel frattempo continuano a vedersi anche con i papà, come hanno sempre fatto, ma fingono che tra loro non sia cambiato niente. È un pudore forse, ma anche un modo per preservare la loro storia dall'invasione degli altri, finché decidono che è giunto il momento di rendere la cosa ufficiale e durante una cena annunciano addirittura il loro fidanzamento. La sorpresa lascia tutti senza parole, ma la notizia è accolta con gioia. Il papà di Raphael ha in fondo sempre sperato che Justine, bellissima e raffinata, potesse diventare sua nuora. Bernard Henry, dal canto suo, non potrebbe desiderare di meglio per sua figlia. Raphael studia filosofia, è colto, brillante e figlio del suo miglior amico. Si dice che spesso le ragazze scelgano uomini che siano l'esatta copia del loro padre. E in questo caso è più vero che mai. E lo stesso Levi a scherzarci. Vedere Raphael era come vedere me 20 anni prima. Intraprendente, curioso e affascinante. Sì, lo so, se lo dico sembro narcisista, ma anch'io ero affascinante. La felicità di Raphael e Justine è incontenibile. Il loro amore cresce ogni giorno e in breve tempo, anche se sono giovanissimi, decidono di sposarsi. La cerimonia è un evento. C'è tutta la Parigi che conta, la Parigi borghese, raffinata e intellettuale. Justine e Raphael siedono su due grandi sedie di velluto blu, mentre i rispettivi genitori, riuniti per l'occasione, siedono appena dietro. La mamma di Justine è ancora affascinante, ma il tempo e la sua vita di eccessi l'hanno provata. Adesso ha quella bellezza un po' decadente che hanno certe signore, una bellezza che fa intuire un passato glorioso. Piange emozionata per quella sua bambina che non è stata in grado di crescere, ma che adesso è diventata una donna e tra poco sarà una moglie. Justine la guarda, complice, come per ricordarle che è comunque la sua mamma. Si sistema l'abito di pizzo bianco che le lascia scoperte le spalle, su cui cadono i lunghi capelli, e sorride a Raphael. Lui le prende la mano, innamorato e felice, e basta un sì per cominciare una nuova vita insieme. Je n'aurais jamais dû lui dire un jour pour la complimenter. Vous êtes belle comme saphir, saphir notre cheval de trait. Moi je voulais lui faire plaisir, saphir à 100 lieues éventé. Vrai, je voulais lui faire plaisir, mais je crois que je l'ai fâché. Je n'aurais jamais dû lui dire le jour où je l'ai embrassé. Ta bouche a le goût de la cire. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Parigi, nel 1995, ed è scoppiato un grande amore tra Justine Lévy, raffinata e colta figlia del filosofo divo Bernard-Henri Lévy, e il suo storico compagno di giochi, Raphaël Antoine, futuro filosofo e a sua volta figlio del migliore amico del padre di Justine, l'intellettuale e critico Jean-Paul Antoine. Justine e Raphaël, entrambi giovani, affascinanti e bellissimi, sono il prototipo della coppia perfetta. Vivono in uno splendido appartamento nel cuore della capitale francese, in un antico palazzo sorvegliato dalla portinaia che tanto ricorda il condominio con abitanti facoltosi raccontato da Muriel Barberi nel suo bestseller del 2006, L'eleganza del riccio. La loro vita scorre tra cene con gli amici, presentazioni di libri e viaggi. E intanto Justine comincia a scrivere. Le è sempre piaciuto farlo, ma si era sempre limitata ai temi al liceo o alle tesine all'università. Adesso confessa di sentire una pulsione diversa. Il rapporto con mia mamma non l'ho mai risolto. E ho pensato che mettere i miei pensieri nero su bianco potesse servire a stare meglio. Justine prova a raccontare com'era Isabella, sua madre, una donna incapace di vivere e di amare, una donna affascinante, irraggiungibile e inaffidabile, troppo presa dai suoi problemi e dalla sua fragilità per occuparsi della figlia e per darle un po' di amore. E mentre scrive, si libera e piange. Si sfoga tantissimo, finché sente girare la chiave nella porta. Istintivamente nasconde i fogli nel cassetto della scrivania, si pulisce frettolosamente gli occhi con la manica del maglione e si prepara ad accogliere Raphaël con il suo solito sorriso. È una serata speciale e vuole essere al massimo della forma perché sono invitati a cena dal padre di Raphaël per un motivo ben preciso: la presentazione ufficiale della sua nuova fidanzata. Justine e Raphaël non sanno nulla di lei, ma appena la vedono, la riconoscono e rimangono completamente senza parole. È una famosissima top model e il suo nome è Carla Bruni. Carla Bruni. Carla Bruni, classe 67, non ha bisogno di molte presentazioni, si sa praticamente tutto di lei. Attuale moglie del presidente francese Nicolas Sarkozy, nata a Torino da una ricca famiglia di imprenditori e artisti, ha avuto una vita costellata di successi, tanto che lei stessa dichiara: tutta questa fortuna che in fondo io ho da sempre. Da ragazza si trasferisce a Parigi. Inizia a frequentare la facoltà di architettura alla Sorbona, ma la abbandona subito per tentare la carriera di modella. Ha 19 anni, non è giovanissima per gli standard, ma conosce bene il suo potenziale e chi crede fin da subito in lei non si sbaglia. Carla sulla passerella è veramente una bomba. Sono gli anni 80, il periodo d'oro della moda, e le grandi top model sono delle vere e proprie star. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Elena Christensen e la stessa Carla arrivano a guadagnare cifre da capogiro intorno ai 50-60 mila dollari al giorno. Per una sfilata, molto, molto di più. E Carla viene letteralmente contesa dagli stilisti. Tutti gli stilisti ho lavorato, sono stata fortunata. Quando ho fatto la modella ho lavorato per tutti e mi sono divertita con tutti. Cioè proprio da Dolce Gabbana a Versace, da Calvin Klein a Yves Saint Laurent. Più che una modella, un'icona. Con quella sua bellezza altezzosa e un po' dura, con quei tratti ben marcati che la differenziano così tanto da tutte le altre. Ma soprattutto una donna che, oltre al fascino e alla sensualità indiscutibili, ha anche quel suo carisma che fa letteralmente capitolare gli uomini. Carla Bruni non è una che sia contenta. E soprattutto non ha paura di rischiare, di prendere la vita di petto senza ponderare più di tanto ogni decisione. Quello che la guida, di cui si fida ciecamente, è il suo istinto. Fare la modella le piace, le permette di guadagnare un sacco di soldi, di conoscere gente di tutti i tipi, girare il mondo e divertirsi. Però per lei, che respira creatività fin da quando è piccola, con in casa una sorella attrice, un padre compositore e una mamma musicista, fare arte è un'altra cosa. E così, un po' per gioco, un po' perché ci crede, inizia a suonare la chitarra. Prende lezioni, non da neofita. Diciamo che affina una tecnica che già aveva impostato da bambina. E sopra le note prova a cantare con la sua voce profondamente sensuale. Quello che le piace fare in particolare è prendere delle poesie famose e provare a musicarle, come racconta lei stessa. Io adoro cantare in inglese, adoro queste poesie e poi l'idea mi era venuta anche da molti cantautori francesi e italiani, come Fabrizio De André o per esempio Georges Brassens oppure Léo Ferré, e tutti questi cantautori avevano molto lavorato sulla poesia e avevano trasformato le poesie in canzoni. Quando Justine e Raffaele arrivano a casa di Jean-Paul, il papà di Raffaele, Carla gli sta facendo sentire qualcosa e quando li vede entrare appoggia la chitarra sul tappeto per andargli incontro e salutarli. Raffaele, educato e sorridente, le stringe la mano e lo stesso fa Justine, anche se con un po' meno naturalezza. Carla fa la modella e la sua esperienza con le modelle è burrascosa, visti i precedenti con sua madre che faceva lo stesso lavoro. Con un atteggiamento di sospetto tipico delle donne e su cui le donne sanno ridere, inizia nella sua testa a viaggiare con la fantasia e a sfornare domande. Perché una donna così giovane dovrebbe stare con un uomo che potrebbe essere suo padre? Perché una modella con aspirazioni da cantante dovrebbe interessare a un uomo dal profilo culturale così solido come suo suocero? Ma a tavola crollano tutti i suoi dubbi. Carla si siede vicino a lei ed è veramente simpatica, oltre che colta e intelligente. Dietro a quella sua scorza da superdonna si cela in realtà una donna normale, che si preoccupa delle piccole cose della vita e che a volte è felice e a volte no, e soprattutto che ama profondamente il suo compagno, dal quale ha protezione, stimoli e allegria. Dopo la prima impressione oscurata dal pregiudizio, Justine scopre una Carla che le piace. Io e Carla andavamo molto d'accordo. Fin da subito abbiamo iniziato a chiacchierare di tutto. Lei sembra fredda, ma è divertente e molto in gamba. È una donna interessante, è normale che gli uomini cadano ai suoi piedi. Jean-Paul, il papà di Raffaele, è letteralmente stregato da Carla. E i quattro, Justine, Raffaele, Carla e Jean-Paul, iniziano a uscire spesso insieme, come succede tra due coppie di amici. A volte Carla e Justine si vedono da sole, fanno shopping, vanno a inaugurazioni di mostre, si incontrano per pranzo in un bistrò a chiacchierare. In particolare, nell'ultimo periodo, Justine parla e Carla ascolta, pronta a dare consigli. Justine ha qualche problema con Raffaele, che da compagno affettuoso e attento è diventato distratto e distaccato. Non si può accusare il tempo di questo, perché non è passato molto da quando si sono sposati. Eppure Raffaele sembra un'altra persona. Justine ha provato a chiedergli qual è il problema, se c'è qualcosa di cui parlare, se c'è qualcosa che lo fa stare male. Ma lui scrolla la testa, alza le spalle, non risponde e cambia discorso. Justine non sa come uscirne. Poteva parlarmi di tutto, ma quel silenzio mi faceva impazzire. Non capivo cosa succedeva e mi sembrava che più passava il tempo, più la situazione peggiorava, si complicava. Justine, dopo averci pensato a lungo, decide per la soluzione più drastica: seguire Raffaele quando esce di casa. Nel suo cuore sa che lui la ama, ma da quando le è venuta in mente l'ipotesi che lui possa tradirla, non riesce a darsi pace. D'altra parte, lui sempre più spesso si ferma a dormire fuori, giustificando l'assenza con una conferenza in università. E anche se Justine sa che rischia di trovare quello che immagina, non può più aspettare. E così, una mattina, dopo che lui le ha dato un veloce bacio di abitudine facendo colazione ed è uscito di casa, lei prende il cappotto e lo rincorre. Lui prende un taxi, lei un altro dietro di lui, ma nel tragitto il cuore comincia a batterle fortissimo. Pensa anche di lasciar perdere, tanto ha paura di farsi male, ma poi non molla. Ha bisogno di sapere la verità. Quando il taxi di Raffaele dovrebbe svoltare a destra per andare verso l'università, invece gira a sinistra per fermarsi davanti a un bar. Justine resta in macchina dall'altro lato della strada e guarda Raffaele che scende. Ad aspettarlo, seduta a un tavolino, c'è Carla. E Justine si sente istintivamente sollevata, Forse devono parlare di lavoro, di Jean Paul, ma in un attimo crolla tutto il suo mondo. Carla si alza in piedi, abbraccia Raphael e i due si lanciano in un bacio appassionato e romantico che lascia ben poco all'immaginazione. Justine sviene nel taxi. È l'inizio della fine. Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e Destini incrociati. A Destini incrociati stiamo raccontando il legame a doppio filo che c'è tra due donne. La prima è Justine Levy, raffinata parigina di famiglia borghese e intellettuale. La seconda è Carla Bruni, super top italiana che ama la Francia a tal punto da volerne incarnare lo stereotipo snob, evidente dalla parodia che ne fa lo showman Fiorello, diventato ormai un cult. S'il vous plaît, monsieur, je suis Carla Bruni. Qu'est-ce que c'est ça? Qua? Parli qua? Sgabello. Come siete volgari voi italiani. Noi in Francia questo lo chiamiamo tres pol pour les cap. Voilà. Justine è sposata con Raphael e Carla è fidanzata con Jean Paul, padre di Raphael. I quattro sembrano felici quando all'improvviso esplode una bomba. Justine scopre che Raphael e Carla si amano in segreto. Uno shock che la sconvolge, come ricorda lei stessa. Quando li ho visti insieme, sono svenuta. Amavo Raphael e mi fidavo di Carla. Eravamo amiche. Ancora oggi, se ci penso, mi viene la pelle d'oca. È stato un trauma indescrivibile. Justine non riesce a riprendersi per giorni. Raphael fa di tutto per vederla, almeno per sentirla, per cercare di spiegarle la situazione, ma lei non vuole vedere nessuno che non sia suo padre Bernard. E Bernard, dal canto suo, si trova a dover gestire una situazione delicatissima su due fronti, quello di sua figlia, tradita dal marito, e quello del suo migliore amico, papà di Raphael, doppiamente tradito dalla sua fidanzata e da suo figlio. Una situazione difficile che bisogna contenere anche per evitare che arrivi all'orecchio dei giornalisti, vista la celebrità delle persone coinvolte. A ricordarlo con dolore è proprio Carla, in un'intervista in inglese. Sapevo che amavo Raphael, ma sapevo che avremmo fatto male a tante persone. Carla è sempre stata una donna forte e indipendente. È molto realista rispetto ai sentimenti, poco sognatrice, molto pragmatica. Ai giornalisti che glielo chiedevano, era solita dichiarare che la monogamia è noiosa, che nessun uomo e nessuna donna sono fatti per stare sempre con la stessa persona, ingabbiati in un rapporto esaurito, ma che non si può, per convenzione sociale, troncare. Le sue uscite avevano scandalizzato i benpensanti, ma lei ha sempre detto la verità, quello che davvero aveva in testa. Ad esempio, che le promesse sono pericolose, perché non sempre si possono mantenere. I think promises are dangerous if you don't keep them. Justine, al contrario della Bruni, aveva investito tutta la sua vita in quel matrimonio con Raphael e ora si sente completamente persa. Raphael, per Carla, non ha provato un'attrazione momentanea, una cotta. Quello che è successo tra loro si chiama amore e adesso lui lascia definitivamente Justine per cominciare una nuova vita con la modella e cantante italiana. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel, pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice sans Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. Raphael e Carla si amano alla luce del sole e vanno a vivere insieme. Per entrambi è una rinascita, sentono di essersi trovati, di essere uno indispensabile all'altro. Sono felici, appagati e decidono di avere un figlio, il piccolo Aurélien. Proprio lo stesso nome che Justine aveva scelto per suo figlio, semmai ne avesse avuto uno. Anche in campo lavorativo conquistano un successo dietro l'altro. Lui con l'insegnamento e i saggi, e lei con la musica. Il primo album di Carla Bruni, cantato interamente in francese dal titolo Quelqu'un m'a dit, vende moltissime copie e viene osannato non solo dal pubblico ma anche dalla critica. Raffaella nel frattempo fa pace con suo padre. Tutto sembra essersi sistemato, ma Justine continua a star male e nemmeno papà Bernard sa più come aiutarla. Continuava a fumare, dimagriva a vista d'occhio, stavo a casa sua per starle vicino, ma appena uscivo si imbottiva di anfetamine e psicofarmaci. Eravamo disperati, era una situazione terribile. Il dramma per Justine è vedere questa nuova coppia glamour che si mostra con orgoglio al mondo ed essere completamente impotente di fronte a ciò. Ma finalmente, piano piano, l'orgoglio torna a fare capolino. Justine è giovane, è bella, ha tutta la vita davanti e all'improvviso in lei scatta la voglia di reagire. Come ha già fatto per esorcizzare il rapporto tormentato con sua madre, anche qui ha bisogno di mettere nero su bianco questo fantasma dal peso insostenibile per provare a liberarlo e a cacciarlo via per sempre. Inizia a scrivere e parole e lacrime escono insieme a fiumi. In poche settimane è pronto un intero romanzo autobiografico che ha il sapore del riscatto. Titolo dalla funzione purificatrice Rien de grave, niente di grave. Il libro, all'uscita in Francia nel 2004, scala le classifiche, si aggiudica un premio letterario via l'altro e viene stampato in tutto il mondo. In Europa svetta in cima ai best seller, secondo solo al super successo Il Codice da Vinci di Dan Brown. Justine risorge, inizia a girare per le presentazioni, la invitano nei salotti, diventa una star. Gli editori credono in lei e pubblicano anche il suo primo libro, mai fatto uscire, quello in cui raccontava la storia di sua madre. La critica grida al miracolo e Justine, poco alla volta, riesce a lasciarsi tutto alle spalle, mettendo da parte anche i rancori. A chi oggi le chiede di Carla, risponde con grande serenità. Non mi interessa, è passato, non ci penso più. Anzi, forse dovrei ringraziarla. È anche grazie a lei se adesso sono una scrittrice. Ed è sicuramente grazie a lei se ho potuto trovare l'uomo della mia vita. Non serve raccontare com'è finita tra Raffaella e Carla. La donna dalle mille identità, eclettica, tenace, intraprendente, che riesce in tutto quello che fa, che fa diventare oro tutto quello che tocca, è diventata niente meno che la première dame di Francia. Ma chi mi capirà non mi condannerà. La gente è piena di problemi, piccole idee, solidi schemi, entro cui io non entrerò. Morire d'amore. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.